Ecco, a me toccherebbe fare una laudatio del padre Basetti Sani, che abbiamo avuto la fortuna veramente eccezionale di avere tra noi come docente dal 1986 a quest'anno nel nostro corso istituzionale e amico vicino, cooperatore a tutte le nostre attività. Ecco, mi limito per istruzione documentata di tutti insieme a leggere i dati bibliografici che parlano già da sé. Nato a Firenze nel 1912, frate minore dal 28, completati gli studi filosofici e teologici nell'ordine, ordinato sacerdote nel luglio 1935. Studi all'Institut Catholique di Parigi, al Pontificio Istituto Orientale di Roma, all'Institute of Islamic Studies della McGill Université in Montreal, in Canada, e alla Dropsy University di Philadelphia, USA. Licenziato laureando in studi ecclesiastici orientali, licenziato in teologia e filosofia, religioni comparate, diplomato in lingua copta e araba, lettore generale dell'Ordine dei Frati Minori in teologia, honoris causa. Ha insegnato al Seminario Francescano Orientale di Giza in Egitto, al Seminario delle Missioni Francescane di Lione, al Seminario Francescano Nostra Signora degli Angeli a Novaliches nelle Filippine. Professore di teologia della missione alla St. Paul Université di Ottawa, Canada, e nella Santo Tomas Université di Manila, Filippine. Visiting professor alla Columbia Université di New York, al Muir Institute dell'Università di Edimburgo in Scozia, alla Utrecht Université Olanda, alla San Bonaventura Università e alla St. John Université di New York, alla Notre Dame Université Indiana, alla Colorado Université di Boulder, Colorado, alla Rice University di Houston. Elenco le pubblicazioni che con i loro titoli anche sono molto significative. Mohammed en Saint-François, Ottawa 1959, Introduzione allo studio del Corano, Brescia 1967. Per un dialogo cristiano-musulmano, Mohammed Damietta e Laverna, Milano 1969. Louis Massignon, orientalista cristiano, Milano 1971. Il Corano nella luce di Cristo, saggio per una reinterpretazione cristiana del libro sacro dell'Islam, Bologna 1972. Sentite qui uno dei temi prediletti del nostro autore. Louis Massignon, 1883-1962, Christian Ecumenist of Interreligious Reconciliation, Chicago 1974, L'Islam e San Francesco d'Assisi, La missione profetica per il dialogo, Firenze 1975, Muhammad, St. Francis of Assisi and Alvernia, Firenze 1975, Muhammad and St. Francis of Assisi, Manila 1980. Louis Massignon, Firenze 1985. Poi cominciano i titoli che sono contemporanei alla sua presenza in mezzo a noi. Il peccato di Iblis, Satana e degli angeli nel Corano, Palermo 1987. Maria e Gesù, figlio di Maria nel Corano, Palermo, San Paolo 1989, dal Corano al Vangelo, Spino d'Adda 1991, l'Islam nel piano della salvezza, San Domenico di Fiesole 1992, la Cristofania dell'Averno e le stimmate di San Francesco per il mondo musulmano, Negrar 1993, Essenzialmente amore, saggio di Cristologia francescana, Padova 1993, Hussein ibn Mansur al-Halai, martire mistico dell'Islam, San Pietro in Cariano 1994, Cristo nascosto nel Corano, San Pietro in Cariano 1994. Senza contare gli articoli, i vari contributi, dizionari e riviste. Mi pare che questo sia già parlante da sé e se noi l'abbiamo ascoltato con attenzione, credo è perché noi stessi siamo stati aiutati in questi anni veramente a un tipo di attenzione e di sensibilità per il dialogo e l'apertura mentale, l'attenzione per il mondo spirituale islamico che prima non avevamo. Se io devo dire una cosa sola, molto sinteticamente, vorrei dire questo, che grazie alla presenza del padre Basetisani tra noi in questi anni, così discreta, così penetrante dolcemente, così illuminata e competente, Trento ha, dopo questi 7 anni, una visione e un rapporto spirituale col mondo islamico che certamente prima non aveva. Ritengo che questo posso dirlo a nome di tutti e mi accontento di questo, perché per il nostro istituto da una parte, che ha avuto grazia di portare questo contributo, e per il vantaggio spirituale della crescita da parte della nostra comunità locale e del mondo degli studiosi, sia ecclesiastico sia anche più generale universale, questa è da parte nostra la lode più concreta e il riconoscimento più doveroso che possiamo esprimere. Del resto questo è stato formulato anche nell'ultimo comitato scientifico del luglio di quest'anno da parte del nostro istituto, del comitato scientifico di questo istituto, di cui mi permetto di leggere brevemente la menzione che noi allora facemmo con nostalgia perché il padre Basetisani era ritornato alla sua casa madre, che non è in Toscana, è in America, la sua casa provinciale, la sua famiglia religiosa che lo chiamava con vincolo di obbedienza, ecco, e ci aveva già lasciati. Noi in quella sede volemmo già rilasciargli questo riconoscimento. Il comitato scientifico unanime riconosce il ruolo che egli ha avuto nell'istituto e lo ringrazia non solo per aver lasciato la sua biblioteca all'istituto, ma soprattutto per l'apporto dato ad una comprensione del mondo spirituale dell'Islam, che pur operando con spirito profetico si è sempre mantenuta nell'interno di una rigorosa prospettiva scientifica. Contemporaneamente il Comitato ringrazia per la disponibilità il convento di San Bernardino dei Padri Francescani in Trento per l'ospitalità data a Padre Giulio in questi anni con grande semplicità francescana e fraternità aperta. Il padre Basetisani in tutti questi anni non ci ha creato neanche problemi di ospitalità e credo la provincia di San Vigilio dei frati francescani, dei frati minori, va pubblicamente ringraziata. Ecco, questo è il motivo. Noi non abbiamo il nostro istituto è giovane e non ha grandi coccarde accademiche, possibilità di conferimento di grandi titoli. Gli unici titoli che conferiamo sono quelli che i nostri allievi al compimento del loro curriculum, ovvero maturano e ricevono riconosciuto come diploma, altrimenti povera è certo la terra nostra da questo punto di vista. Se avessimo potuto conferire al padre Basetisani un diploma di laurea ad honorem oppure di cittadinanza l'avremmo fatto molto volentieri. Ci siamo limitati almeno ad una pergamena di cui ho cercato di dettare anche il testo che mi pare interpreti quanto qui è stato detto. Al padre Giulio Basetisani, ordine frati minori, islamista di fama mondiale, l'Istituto di Scienze Religiose in Trento, consapevole del privilegio di averlo avuto negli anni accademici 1986-1994, maestro impareggiabile che introdusse nell'ambiente spirituale trentino conoscenza nuova e profonda del mondo islamico, questo attestato di gratitudine consentita venerazione dedica, firmata e datata nel giorno di nella festa di San Francesco d'Assisi di questo mese, caro padre, è tutto quello che possiamo darle. Io so che le parole sono troppo povere per esprimere i sentimenti e il vostro applauso me l'ha fatto sentire. Io vorrei dire proprio con le parole di Dante in questo caso: se il mondo sapesse il cuore che egli ebbe nel darci questo suo dono, mendicando sua vita frusto a frusto, lasciatemi dire anche questo, è frate mendicante, e volta per volta si è dovuto cercare anche quelli che lo aiutavano a pubblicare i libri e così via. Tanto lo loda e più lo loderebbe se il mondo sapesse il cuor che gli ebbe. Qualcosa abbiamo capito di questo, e di questo lo ringraziamo con commozione.